Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, questa è la seconda edizione quotidiana di Italia in Controluce, il programma di Radio 24, quotidiano dedicato all'inchiesta, al reportage, alle interviste. La prima storia è ambientata nel settore del fotovoltaico e il reportage di Alice Cason. Per mesi nel 2011 il mercato italiano del fotovoltaico è andato in letargo. Dopo un 2010 eccezionale, durante il quale il numero di installazioni è cresciuto di 8 volte rispetto all'anno precedente, con il decreto Romani il governo ha sospeso a marzo gli incentivi del terzo conto energia, entrato in vigore appena 2 mesi prima e valido, in teoria, fino a tutto il 2013. Gli ordini sono crollati e si è fermata la produzione. Alcune imprese hanno chiesto la cassa integrazione, altre hanno licenziato parte dei dipendenti. Le più solide hanno rinunciato ad aumenti di personale pianificati quando gli affari andavano a gonfie vele. Dopo mesi di incertezza, a metà maggio un nuovo decreto ha reintrodotto gli incentivi, seppure riducendoli. Agli imprenditori del settore, però, il quarto conto energia, valido fino al 2016, non piace granché. Gianni Chianetta è il presidente di Assosolare. Tantissime aziende stanno continuando a mettere le persone in cassa integrazione. Il sentimento è di freddezza, c'è una sorta di stallo alla ripresa, perché il quarto conto energia ha creato incertezza su ovviamente tutta una serie di tipologie di impianti, no? Medi e grandi. Poi la cosa che mi ha anche sorpreso è che c'è proprio una lentissima ripresa dei piccoli, perché ovviamente l'eccessiva riduzione delle tariffe ha determinato una rivalutazione di chi anche a livello piccolo ha pensato di investire sul fotovoltaico, perché non è più così conveniente ad oggi. Decido di installare dei pannelli fotovoltaici sul tetto di casa. Se l'impianto entra in funzione a luglio riceverò un incentivo decurtato del 3% rispetto a quello che avrei preso con il terzo conto energia. A dicembre il taglio sarà del 21%. Al di là della riduzione progressiva degli incentivi, però, quello che gli imprenditori maggiormente contestano è la loro retroattività. Le nuove tariffe valgono anche per chi ha fatto un investimento contando sulle regole precedenti. Tiziano Vivian è il titolare di Gruppo Energia, un'azienda del Trevigiano. Dobbiamo tenere presente che il cittadino medio ha perso totalmente la fiducia su quello che il governo dice e afferma, quindi da parte degli imprenditori stessi non c'è più fiducia in questo, anche se il conto energia è assolutamente ripartito, però si è minata una fiducia in un sistema. 150 aziende del settore stanno raccogliendo fondi per intraprendere un'azione legale collettiva contro il nuovo decreto. Non ci sono però solo aspetti negativi. Stefano Loro amministra la VP Solar di Treviso. Ci sono anche molti aspetti che sono molto positivi. Ad esempio l'aver portato l'obiettivo nazionale da 8 a 23 giga significa evidentemente creare uno scenario di forte sviluppo potenziale del settore. Però tutti hanno, anche a livello politico, sbandierato la volontà di semplificare. Abbiamo ricevuto un decreto che invece di semplificare dal punto di vista burocratico complica, e questo crea grande delusione. Piacciono i premi alle produzioni europee e agli impianti ecosostenibili, molto meno i limiti ai grandi impianti. Leopoldo Franceschini è l'amministratore delegato della EcoWare di Padova. Il nuovo conto energia qual è? Primo, mettere il cap, che è la cosa che a loro interessa di più, che non si faccia più di tanto, e poi possibilmente fare sì che sia antieconomico, quindi invece che fare una centrale fotovoltaica seria, fatta a campo, che costi il meno possibile, farlo il fotovoltaico sparpagliato sui tetti di Mamma Rosa, che si dimostri che il fotovoltaico costa. Il vero nostro problema sono coloro che hanno investito, enti, organizzazioni, Enel per prima, che hanno investito in centrali a gas a ciclo combinato, che trovano il massimo del loro utilizzo e quindi dei loro guadagni nell'ora di punta. Noi purtroppo il sole ce l'abbiamo nell'ora di punta, e nell'ora di punta noi costiamo meno di qualunque altra forma di produzione di energia, in particolare dell'energia a gas. Quindi questo credo che l'abbiano capito, nel senso che non faranno più investimenti in quel settore, ma ormai gli investimenti fatti hanno bisogno di 4-5 anni di tempo per essere, come dire, ammortizzati, e ci tappano la bocca per 4-5 anni. Insomma, questa è la logica, chiunque sia del settore la capisce molto bene. Io sono fiducioso, nel senso che al di là di questi giochi giochetti, c'è una reale necessità di questi impianti dettata dall'economia che per forza di cose finirà per vincere. Certo che in Italia sarà molto difficile, per cui noi adesso stiamo puntando molto sull'estero, dove per fortuna queste cose non ci sono. La seconda storia invece riguarda la cosiddetta Gronda di Genova, Andrea Ferro. L'hanno chiamata Gronda di Ponente, è o meglio sarà una bretella autostradale che bypasserà il nodo di Genova, uno dei più caotici d'Italia tra svincoli micidiali e carreggiate che si snodano in mezzo alle case o bucando le colline. Tracciati stretti e tutt'altro che rettilinei lungo i quali si ingolfano le rotte del trasporto pesante, del turismo, dei pendolari. Il progetto preliminare è ormai pronto, da qualche settimana le trivelle sondano il terreno scrutando le profondità. La Gronda però non piace agli abitanti di interi quartieri, da tempo mobilitati in una protesta destinata a calcare l'esperienza dei NOTAV piemontesi. Assemblee, presidi, cortei, blocchi stradali, eppure il tentativo di qualcuno di alzare la tensione. Una trivella è stata sabotata. Ma per la società Autostrade la Gronda è fondamentale per alleggerire il nodo attorno a Genova, vicino ormai al collasso. L'ingegner Alberto Selleri. La Gronda serve a risolvere le criticità del nodo di Genova, che è caratterizzato da condizioni di criticità tra le più rilevanti dell'intero sistema nazionale. Nei circa 30 chilometri di rete di cui si compone il nodo di Genova si registra l'80% delle turbative che si verificano sulle tratte di A10, A7 e A12. Inoltre quasi il 70% di queste risulta concentrato nell'area cittadina compresa tra Genova Aeroporto e Genova Est. Si registrano circa 65.000 veicoli giorno. Oltre il 56% di questi veicoli ha circolato nel 2008 in condizioni di deflusso inadeguato. La realizzazione della Gronda contestualmente al potenziamento della 7 e della 12 consentiranno una normalizzazione della circolazione, liberando l'attuale A10 dalla totalità del traffico pesante e da una significativa aliquota del traffico leggero. La bretella sarà lunga 25 chilometri, si intersecherà nel paesaggio abbattendo case e scarnificando quel che resta della campagna facciata sul ponente della Valpolcevera. Paolo Putti è il portavoce dei No Gronda. Ecco perché, secondo loro, il passante è inutile. Allora, inutile perché dal punto di vista dello studio di costi-benefici è stato riportato da docenti universitari che sono intervenuti nei dibattiti che quest'opera solo dal punto di vista trasportistico si ripagherebbe in 1000 anni e che non va ad affrontare i reali problemi del traffico della città di Genova, perché le problematiche del nodo autostradale sono differenti e sono fortemente legate alla non capacità e possibilità della città di ricevere il traffico che viene trasportato sulla rete autostradale, che è nella stragrande maggioranza un traffico interno alla provincia di Genova. La Gronda costerà 4 miliardi, euro più euro meno, e ci vorranno 8 anni per realizzarla. Il tracciato è stato scelto dopo un lungo e tormentato dibattito pubblico. Ancora l'ingegnere Alberto Selleri di Società Autostrade. La scelta del tracciato deriva dal dibattito pubblico che è stato fatto nel 2009 e diciamo che è stata effettuata privilegiando il criterio di minimizzare l'impatto sul sistema abitativo. Questo non riguarda soltanto il tracciato in sé per sé, ma anche le cantierizzazioni. Il tracciato che è stato individuato corre per circa il 90%. Più del 95% appunto in sotterraneo, non disturbando il territorio. Ma i No Gronda insistono, oltre ad essere inutile, la bretella pregiudica la qualità della vita di interi quartieri, dicono. Ancora Paolo Putti. Dannosa perché? Perché va di fatto a traforare e a costruire ponti e gallerie in un territorio densamente popolato come quello della periferia genovese del Ponente, parliamo di Valpolcevera e Ponente Genovese, quindi decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di abitanti, all'interno dei quali porterebbe altre polveri sottili, un rischio per presenza nelle rocce di amianto, di polveri di amianto durante gli 8 anni previsti di cantiere, ed inoltre peggiorerebbe di molto la qualità della vita dei territori in luoghi che già sono, come dire, le periferie di una città su cui la città ha scarsamente investito in questi anni. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, vi ricordo 6:30 e 13:15 in questo mese di luglio. Cercateci su Facebook, Twitter, comunicate con noi. via mail contoluceradio24.it. Vi saluta qui Daniele Biacchesi, domani 6:30 Radio 24.